Con Amedeo Anfuso, regista dello spettacolo Era meglio nascere topi, in scena a Roma, al Teatro Studio 1, dal 25 al 28 aprile 2019. Amedeo, ben trovato. Ciao, grazie. Descriviamo questo lavoro. Sì, allora, questo lavoro è nato un anno e mezzo fa a Torino, noi viviamo e lavoriamo a Torino, ed è nato da tutto un percorso che abbiamo fatto di studio, di volontariato, di lavoro vero e proprio con delle associazioni sulla cultura rom, sulla situazione dei campi nomadi in Italia e sul popolo rom in generale, a livello proprio di storia, storia passata e presente del popolo rom. E da lì, da tutto questo studio, ci siamo imbarcati nel cercare una storia da raccontare legata a questo argomento. E ci siamo ispirati a dei fatti realmente accaduti, che accadono ancora e che continuano ad accadere, di un campo nomadi che era stato costruito vicino a Milano e di un presidio permanente per mandare via questo campo. E ci siamo ispirati un po' a questa storia e raccontiamo la storia di questo presidio, di queste persone che costruiscono una sorta di campo fuori dal campo per mandare via queste persone. Su cosa avete deciso di puntare? Ma ci siamo trovati a un certo punto con il desiderio di non raccontare più tanto la cultura rom e di non metterci neanche nei panni di questa cultura, ma di raccontare un po' più qualcosa di noi e del rapporto che noi, che la nostra società oggi ha con questo popolo, che è un rapporto che spesso appunto viene identificato e viene filtrato attraverso la questione dei campi. E quindi, avendo trovato questo fatto di cronaca, abbiamo deciso quanto più possibile di riflettere, di costruire un po' sul palcoscenico un piccolo specchio della nostra società, un qualcosa in cui rispecchiarci, e di raccontare soprattutto le persone, di raccontare un po' quel lato della popolazione, dei cittadini che portano avanti poi anche tutto quello che può essere uno stereotipo e anche una retorica poi dell'odio di fatto, quindi del trovare, di quanto ci si senta poi tutti quanti vicini all'improvviso in una cittadinanza quando c'è in questo caso un nemico da mandare via, un qualcuno da mandare via, un qualcuno a cui addossare delle colpe, che è una dinamica che spesso si crea oggi, noi pensiamo. Grazie anche alla tua esperienza, alla vostra esperienza, quali sono gli aspetti della cultura rom che più ti hanno impressionato? Ma l'aspetto storico più grande che impressiona, su cui ci si fa più domande, è il fatto che siano, a livello proprio pratico storico, una delle minoranze etniche più odiate d'Europa e del mondo, e che questa cosa sia molto poco raccontata. Ma fin dall'antichità, ma anche solo durante il nazismo, c'è stato un enorme genocidio nazista anche contro il popolo rom, che però è un lato di questa storia che raramente viene raccontata e che è anche stata poco riconosciuta poi storicamente. E questa è una cosa che sicuramente impressiona e sulla quale viene anche da chiedersi il perché, soprattutto perché poi c'è un filtro grosso per cui viene sempre solo fatto vedere un lato delle cose. In realtà anche in Italia quello che abbiamo scoperto lavorando è che ci sono tantissimi rom che uno incontra, che puoi incontrare per strada, che non diresti mai che sono rom, semplicemente. Perché la maggior parte semplicemente vive integrata, diremmo noi, ma noi vediamo soltanto un lato di questa cultura, che è stata negli anni molto discriminata e molto anche rinnegata. Tantissimi rom in Italia che abbiamo conosciuto, per integrarsi, per trovare lavoro, per trovare una casa, l'unico modo che hanno avuto è stato smettere di dire che erano rom. E quindi dicono che sono rumeni, non dicono di hanno rinnegato il proprio popolo e la propria cultura. E solo negli ultimi anni si è ricreato un po' una protezione della propria cultura e un tornare a dire io sono di origini rom. Ma tantissimi hanno dovuto rinnegare questa cosa. Pirlo, il calciatore, è di origine rom. Chi lo sa? Nessuno, però è così. Ecco, questo è curioso. Questo titolo. Era meglio nascere i topi, si ispira a un video che girava su YouTube un po' di tempo fa di alcune persone fuori da un campo rom che intonavano dei cori e insomma volevano mandare via dei rom. Tra tutte queste persone che venivano intervistate c'era una signora che aveva fatto tutto un discorso e continuava a dire che a lei dispiaceva per i topi che erano costretti a vivere insieme ai rom nel campo in mezzo alla sporcizia. Diceva che per lei la cosa che le dispiaceva di più era i poveri topi costretti a vivere con queste persone così brutte. frase come motivo che ritorna nello spettacolo, e da queste frasi di questa signora abbiamo preso anche il titolo, ecco. Ci racconti anche un po' dell'esperienza Anomalia Teatro? Sì, allora, noi siamo una compagnia nata a Torino 3 anni fa, siamo un gruppo di artisti, abbiamo fatto tutti insieme una scuola di teatro a Torino, l'atelier di teatro fisico di Filippo Radice, e finita la scuola avevamo il desiderio di mettere i nostri spettacoli, il nostro lavoro sotto un unico nome. Abbiamo iniziato 3 anni fa con una riscrittura dell'Antigone, Antigone monologo per donna sola, che ha girato molto anche qua a Roma, eravamo qua a Roma 2 settimane fa al premio Mauro Rostagno, e questo è stato il nostro primo spettacolo. Dopodiché abbiamo proseguito con un'altra produzione che è Uroboro, che è stata quest'anno a Roma, qua a Roma, al Roma Fringe Festival, che invece è uno spettacolo tutto di teatro fisico e visuale, e adesso quest'anno appunto stiamo debuttando con Era meglio nascere topi qui a Roma, e invece a maggio debutteremo con un altro monologo al Torino Fringe Festival, con un monologo ispirato a Theo Van Gogh, al fratello di Vincent Van Gogh. Questo è un po' quello che abbiamo fatto in questi primi 3 anni di avventure. Ci lasci tutti i vostri riferimenti web? Sì, sì, noi siamo su Facebook, Anomalia Teatro, e poi abbiamo il sito anomaliateatro.it, e lì si trovano informazioni su tutti gli spettacoli, tutto il calendario delle date e tutto. E lo spettacolo dove sarà dopo Roma? Dopo Roma sarà probabilmente a Torino, non sappiamo ancora se è già ottobre o più verso dicembre, comunque sicuramente faremo un debutto, diciamo, in casa, probabilmente al Teatro Astra a Torino. E allora ricordiamo l'appuntamento romano, Era meglio nascere topi, a Roma, al Teatro Studio 1, dal 25 al 28 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Amedeo Anfuso. Un abbraccio, un in bocca al lupo, ci si vede a teatro. Grazie, crepi, ci si vede a teatro. Grazie.